La buca dell'inferno, sabato 9 aprile. Il mattino dopo, il montone, preso Nils in groppa, gli fece fare il giro dell'isola. Questa era un'unica enorme roccia, la si sarebbe detta una grande casa, con le mura verticali e il tetto orizzontale ricoperto di ricchi pascoli. La piccola Carla sembrava creata apposta per le pecore. Ma c'era ben altro da vedere. Innanzitutto l'ampio mare azzurro sotto il sole, increspato da lunghe onde regolari. A est si vedeva l'isola di Gotland e a sud-ovest la grande Karl, che sembrava la copia esatta della piccola Karl. Sporgendosi dall'orlo del pianoro, si vedeva la scogliera a picco che ospitava migliaia di uccelli, in quel momento tutti occupati a pescare aringhe. «È proprio una terra benedetta per voi pecore», commentò Nils. «Oh sì, qui si sta benissimo», convenne il montone. «Bisogna solo stare attenti quando ci si aggira per il pianoro a non precipitare in uno dei molti crepacci che lo attraversano». Egli indicò il più grande, soprannominato la buca dell'inferno, spiegandogli che era profondo decine di metri e largo più di due. «Chi ci cade dentro è spacciato», commentò, e a Nils parve che lo dicesse di proposito. Poi il montone portò il piccolo cavaliere alla spiaggia, dove Nils poté vedere da vicino i giganti che l'avevano spaventato nella notte, che erano null'altro che rocce isolate. Il montone le chiamava Raukar, e Nils pensò che dovesse trattarsi di giganti pietrificati. Sebbene la spiaggia fosse amena, Nils non vedeva l'ora di tornare in alto. Ai piedi della rupe si incontravano ovunque i resti delle carneficine compiute dalle volpi. Accanto agli scheletri spolpati c'erano corpi divorati solo a mezzo e pecore uccise ma intatte, ed era facile rendersi conto che le volpi avevano assalito gli ovini non tanto per bisogno quanto per il gusto di cacciare e uccidere. Tornati che furono sul pianoro, il montone sospirò e disse: «Se qualcuno intelligente e capace vedesse questo massacro, non avrebbe requie prima di aver punito le volpi». «Beh, ma le volpi devono ben vivere anche loro», obiettò il ragazzo. «Sì», rispose il montone, «ha tutti i diritti di vivere chi non uccide più del suo bisogno, ma queste sono assassine». «Ma non penserai che un ragazzo come me potrebbe venirne a capo, quando non ci sono riusciti neppure i contadini ai quali appartiene l'isola». E il montone sentenzioso rispose: «Chi è piccolo e scaltro può fare molto». Non ne parlarono più e Nils tornò dalle oche che pascolavano sul pianoro. Era addolorato per le pecore e le avrebbe aiutate di tutto cuore. Decise di parlarne ad Akka e a Morten, chissà che non riuscissero a dargli un buon consiglio. Poco dopo, ecco l'ocone che con Nils in groppa si dirigeva alla buca dell'inferno. Pareva che avesse molto sofferto per via della tempesta, zoppicava dalla zampa destra e trascinava l'ala sinistra, eppure si comportava come se niente fosse, girando di qua e di là, ogni tanto fermandosi a strappare qualche filo d'erba. Il ragazzo gli stava disteso sul dorso a fissare il cielo azzurro. Era talmente abituato a salire in groppa al papero che poteva rimanervi seduto o sdraiato a piacimento, e così i due parvero non accorgersi delle tre volpi che erano scivolate sul pianoro. Le tre sapevano che è quasi impossibile avvicinarsi a un'oca in campo aperto e dapprima non pensarono neppure di dare la caccia al papero, ma non si sa mai. E i tre predoni si acquattarono in una fenditura e strisciarono con mille precauzioni verso l'oca. Solo quando furono molto vicine, Morten batté le ali come per levarsi in volo, ma non riuscì a decollare. A quella vista, le volpi, abbandonate ogni prudenza, schizzarono fuori dal crepaccio e si avventarono sul papero. Finalmente Morten s'accorse di loro e con uno scarto laterale sfuggì all'attacco. Non aveva però che pochi metri di vantaggio e per di più era zoppo. Correva più veloce che poteva, cosa che di solito è sufficiente a mettere in salvo un'oca. Seduto a cavalcioni del papero, Nils gridava alle volpi: «Siete troppo imbottite di carne di pecora! Non riuscite neanche a raggiungere un'oca!» E continuò a canzonarle finché quelle divennero pazze di rabbia e si gettarono alla cieca dietro ai due. L'ocone correva diritto verso la grande voragine. Giunto all'orlo, diede un colpo d'ali e fu dall'altra parte, appena un attimo prima che le volpi lo raggiungessero. Fece per riprendere la corsa, Ma Nils gli accarezzò il collo dicendogli: basta, adesso puoi fermarti. E in quella udirono alle loro spalle grida di terrore, un disperato graffiare sulla roccia e il tonfo di corpi pesanti. Le volpi erano scomparse. Il mattino dopo, il guardiano del faro della grande Karl trovò sotto l'uscio di casa sua un pezzo di corteccia su cui si leggevano in caratteri rozzi e spigolosi queste parole: le volpi della piccola Karl sono cadute nella buca dell'inferno. Può andare a raccoglierne i resti, se vuole. Due città. La città in fondo al mare. Sabato 9 aprile. La notte successiva trascorse tranquille. Le oche poterono dormire all'aperto sul pianoro. Nils s'era disteso accanto a loro nell'erba, ma la luna splendeva così chiara che lui non riusciva a prender sonno. Nils aveva lasciato casa sua da 3 settimane e si era alla vigilia di Pasqua. È la notte in cui le streghe ritornano da Blaculla, si disse sorridendo perché si aveva un po' di paura del Nek, il genio dei fiumi e dei coboldi. Alle streghe non ci credeva affatto. E se quella notte ce ne fossero state in giro, le avrebbe viste. Il cielo era limpidissimo, vi si sarebbe potuta scorgere la più piccola ombra. Mentre se ne stava così, col naso in aria, gli si offrì uno spettacolo straordinario. Davanti al disco tondo e pieno della luna, altissima in cielo, volava un grande uccello che sembrava uscirne. Il corpo era piccolo, il collo lungo e sottile, le gambe lunghe e penzolanti. Non poteva essere che una cicogna, ed effettivamente un istante dopo il signor Ermenrich prendeva terra accanto al ragazzo, toccandolo col becco per destarlo. Nils balzò a sedere. Non sto dormendo, signor Ermerich. Come mai in giro a quest'ora della notte? È troppo chiara per poter dormire, rispose la cicogna. E così ho deciso di venirti a trovare, amico Pollicino. M'ha detto un gabbiano dove pernottavate. Non sono più a Glimminghe, siamo tornati in Pomerania, a sud del Baltico. Per un po' chiacchierarono del più e del meno. Poi Ermerich gli chiese se non aveva voglia di fare un giretto. Nils non chiedeva di meglio, raccomandò solo di riportarlo prima che le oche si svegliassero. Così, con il ragazzo sul dorso, il trampoliere puntò verso la luna, salendo sempre più in alto, con volo così leggero che a Nils pareva di star fermo. Gli sembrava che fossero passati solo pochi minuti quando la cicogna atterrò su una spiaggia deserta, coperta di sabbia fine e compatta. Verso l'interno si stendeva una lunga fila di dune coronate da ciuffi di erbe. Ermerich salì su una duna, alzò una gamba, piegò il collo per infilare la testa sotto l'ala e disse a Nils: «Fatti una passeggiata mentre io schiaccio un sonnellino e ricordati che questa è la Pomerania, qui siamo in Germania». Il ragazzo aveva fatto solo pochi passi quando il suo zoccolo urtò contro qualcosa di duro. Si chinò. Era una monetina di rame, così ossidata da essere quasi trasparente. Quando si raddrizzò, restò stupefatto. A pochi metri da lui si levava un muro merlato con una porta maestosa sovrastata da torrette. Doveva trattarsi di un incantesimo. Un attimo prima, quando si era curvato per guardare la moneta, aveva davanti solo il mare scintillante nel chiaro di luna, ma non ebbe paura. La porta e le mura erano costruite con tanta arte che provò il desiderio di dare un'occhiata al di là. Sotto la volta, guardiani in ricchi abiti variopinti giocavano a dadi e accanto avevano alabarde dalle lunghe aste. Erano così assorti nel gioco che non si accorsero di Nils. Oltre la porta si apriva una grande piazza lastricata, circondata da palazzi grandiosi, tra i quali si insinuavano stretti vicoli. La piazza formicolava di gente, gli uomini indossavano lunghe cappe di pelliccia, sopra abiti di seta, in testa avevano berretti ornati di piume, lunghe catene d'oro scendevano loro sul petto. Erano tutti belli come re. Le donne avevano alti cappelli a cono e abiti lunghi dalle maniche strette. Anch'esse erano riccamente abbigliate, anche se meno pomposamente degli uomini. Sembravano tutti quanti usciti dal vecchio libro di favole che in rare occasioni la madre di Nils cavava dalla cassapanca per mostrarlo al suo figlio. La città era ancora più singolare degli abitanti. Tutte le case avevano la facciata con frontone verso la strada e tutte erano splendidamente ornate. Quando si scoprono tante cose nuove tutte insieme, si finisce per non ricordarne nessuna. Ma Nils non avrebbe mai potuto dimenticare i frontoni a gradini, su ognuno dei quali c'erano le statue di Cristo e degli Apostoli, mentre in altri le statue erano poste dentro nicchie e altri ancora erano adorni di intarsi di marmo o di vetri colorati. Le strade erano strette e lunghe, ma niente affatto tristi come quelle delle città che Nils conosceva. Dappertutto c'era gente, vecchi erano intenti a filare sulle soglie, le botteghe affacciate sulla strada sembravano le baracche di una fiera. Qui si travasava l'olio di balena, lì si conciavano pelli, più in là ancora si fabbricavano corde. Se Nils avesse avuto il tempo, avrebbe potuto imparare mille mestieri. Gli armaioli battevano metalli per farne corazze, gli orafi incastonavano pietre preziose in anelli e bracciali, i ciabattini applicavano suole a leggere scarpe rosse, i tessitori preparavano stoffe d'oro e di seta. Ma Nils non aveva il tempo di fermarsi e correva veloce per le strade per vedere il più possibile prima che tutto scomparisse. Alte mura circondavano la città e le si vedeva in fondo a ogni strada dove si apriva una porta. Sugli spalti andavano avanti e indietro soldati con la corazza e l'elmo luccicante. Nils percorse in lungo e in largo la città e arrivò a una porta oltre la quale c'erano il porto e il mare. Vide bastimenti di foggia antica, facchini che caricavano e scaricavano merci e ovunque regnava una frenetica attività. Ma non si fermò neppure lì. Tornò indietro e giunse alla piazza principale con la cattedrale munita di tre torri campanarie altissime e di profondi portali ornati di statue. In faccia al duomo sorgeva un palazzo merlato sormontato da un'agile torre. Doveva essere il municipio e tutt'attorno a questo sontuosi edifici dalle ricche facciate scolpite. Imboccò una strada lungo la quale si aprivano fondachi in cui si vendevano splendidi tessuti, sete multicolori, broccati d'oro, velluti cangianti, pizzi fini come ragnatele, e Nils s'avvide che un mercante lo invitava ad avvicinarsi facendogli cenno. Dapprima ebbe paura e fece per fuggire, ma il mercante insistette a chiamarlo, sempre sorridendo, e intanto stendeva su un tavolo davanti a sé una gran pezza di seta come per indurlo a comprare. Nils scosse il capo, pensando che non sarebbe mai stato tanto ricco da acquistarne neppure un metro, e intanto altri mercanti si erano affacciati alle porte degli altri fondachi, trascurando i propri ricchi clienti e non badando che a lui. Siccome Nils tirava diritto per la propria strada, uno dei mercanti corse a deporgli ai piedi una pezza di tessuto d'argento e il ragazzo non poté trattenersi da una risata. Possibile che non si accorgessero che un povero diavolo come lui non aveva denari per simili meraviglie? E allungò le mani vuote per significare che non aveva il becco di un quattrino. Il mercante levò un dito porgendogli tutta la pezza. Vuol forse farmi capire che è disposto a vendermela per una moneta? Pensò Nils. E infatti il mercante cavò di tasca una piccolissima logora monetina e gliela mostrò. E per la smania di vendere aggiunse alla stoffa due grandi pesanti calici d'argento. Allora Nils cominciò a frugarsi in tasca, mentre tutti i mercanti tendevano il collo speranzosi e quando videro che non aveva un soldino, i loro occhi si imperlarono di lacrime. In quella Nils si ricordò della monetina di rame vista poco prima sulla spiaggia, imboccò di corsa la lunga strada che conduceva alla porta, si ritrovò sulla spiaggia, si diede a cercare la monetina di rame e la trovò, ma quando l'ebbe raccolta e fece per tornare, davanti a sé non vide più che il mare. Non poté trattenere le lacrime e in quella il signor Ehrenreich si destò, egli si accostò. Nils non se ne accorse, tant'era in preda alla commozione, e la cicogna dovette toccarlo col becco per riscuoterlo. Oh, ho l'impressione che tu abbia dormito come me, gli disse. Ah, signor Ehrenreich, che città era quella che sorgeva qui un momento fa? Chiese Nils. Una città? Fece la cicogna. Hai dormito e sognato, te l'ho già detto. No, Non ho affatto sognato, ribatté Nils e raccontò quel che aveva visto. Ascoltato che l'ebbe, il signor Emmerich disse: Oh, per quanto mi riguarda, sono ancora convinto che tu abbia sognato. Devo però dirti che il corvo Bataki, che è il più sapiente degli uccelli, mi ha raccontato un giorno che qui, sulla spiaggia, sorgeva tanto tempo fa una città chiamata Vineta ed era la più ricca e la più bella di tutte. Purtroppo i suoi abitanti si abbandonarono al lusso e alla superbia e per punizione la città è stata sommersa da un'eccezionale marea e inghiottita dalle acque. Ma sempre stando a Bataki, gli abitanti non possono morire né la loro città scomparire. Una notte ogni 100 anni Vineta risorge in tutto il suo splendore dal fondo del mare e per un'ora rimane in superficie. Passata l'ora, se nessun mercante è riuscito a vendere qualcosa a un essere vivente, Vineta risprofonda in mare. Sarebbe bastato che tu avessi avuto una monetina, anche piccolissima, per pagare i mercanti, e Vineta sarebbe rimasta sulla terra e i suoi abitanti avrebbero potuto vivere e morire come gli altri. Adesso capisco, signor Ermenrich, disse Nils Holgersson, perché questa notte è venuto a prendermi. Sperava che io potessi salvare la città, vero? Oh, signor Ermenrich, quanto sono addolorato di non esserci riuscito! E si nascose il viso tra le mani e pianse, né si sarebbe potuto dire quale dei due fosse più triste, se il ragazzo o la cicogna. La città vivente, lunedì 11 aprile. Il lunedì di Pasqua, le oche e Nils stavano volando al di sopra della grande isola di Gotland, piatta e uniforme, suddivisa in tanti riquadri come la Scania, con molte chiese e fattorie. Su Gotland non esistevano grandi tenute con castelli e parchi. Le oche avevano scelto quella rotta per amore di Nils, da 2 giorni profondamente afflitto per la scomparsa della città. H e Morten avevano fatto del loro meglio per convincerlo che era stato tutto un sogno, ma il ragazzo non se ne voleva persuadere. Mentre era immerso nel suo dolore, era ricomparsa la vecchia Kaxi, che la tempesta aveva sbattuto su Götland, dove certe cornacchie le avevano detto che le sue compagne erano sulla piccola Karl. Saputo il motivo della tristezza di Nils, Kaxi disse: Se Pollicino è afflitto per via di un'antica città, potremo consolarlo. Vi condurrò in un luogo che ho visto ieri e Pollicino non sarà più triste. Avevano così preso congedo dalle pecore ed erano partite nell'aria tiepida, quasi come d'estate, allontanandosi dall'interno dell'isola, finché davanti a loro s'aprì il mare ampio e azzurro. E lì, sulla costa occidentale di Gotland, sorgeva una città. Venivano da est e mentre il sole stava tramontando, le mura, le case e le torri spiccavano nere sul cielo occidentale ancora illuminato e di primo acchito Nils ebbe l'impressione di trovarsi di fronte a una città uguale per splendore a quella che aveva visto la notte di Pasqua. Avvicinandosi, constatò che era effettivamente assai somigliante a quella e tuttavia diversa. Al pari della città pomerana, anche questa era circondata da mura con torri e porte, ma le torri erano scoperchiate, vuote e abbandonate. Le porte erano senza battenti, non vi si vedevano né guardie né soldati. L'antico splendore era scomparso, non restavano che le nude mura. Le case erano per lo più basse e di legno, anche se qua e là ne sorgevano di alte e in muratura con grandi frontoni, oltre ad antiche chiese. I frontoni erano dipinti di bianco e privi di fregi, ma Nils, che aveva visto la città sommersa, immaginava benissimo come dovevano essere stati un tempo ornati di statue, di marmi, di vetri colorati. Le strade anguste erano quasi deserte, ma il ragazzo sapeva che un tempo dovevano formicolare di uomini riccamente vestiti e che vi si aprivano laboratori pieni di operai indaffarati. Ma ciò di cui Nils non s'avvide era che la città è ancora oggi bella e amabile, con le sue casette in fondo alle stradine nascoste, i numerosi giardini dai vialetti ben curati, le rovine inghirlandate di rampicanti. I suoi occhi abbagliati dallo splendore del passato non sapevano per il momento scoprire nulla di buono nel presente. Le oche andarono a posarsi per la notte tra le rovine di una chiesa. S'addormentarono subito, ma Nils continuava a vegliare, guardando attraverso il tetto crollato, il cielo pallido. E a furia di riflettere, giunse alla conclusione che non aveva ragione di rattristarsi per non essere riuscito a salvare la città sommersa. Se Vineta non fosse scomparsa, avrebbe offerto il medesimo spettacolo di quella in cui adesso si trovava, perché non avrebbe potuto opporsi al tempo e alla caducità delle cose umane, ed era quindi meglio che fosse sprofondata in tutto il suo splendore. Molti sono i giovani che la pensano come Nils, ma quando si diventa vecchi e ci si abitua a contentarsi di poco, si preferisce la povera città di Visby, cadente ma reale, alla splendida Vineta, sepolta in fondo al mare. La saga dello Småland. Martedì 12 aprile. Le oche avevano attraversato senza difficoltà il mare ed erano giunte nella contrada di Tjust, che si trovava nello Småland settentrionale. Si direbbe un paese che non abbia saputo decidersi tra terra e mare. Ovunque i fiordi penetrano nell'interno formando un labirinto di penisole, isole, istmi e promontori. Vi giunsero verso sera. La costa, tutta collinette cinte dal mare, era splendida e ricordava Nils il Blekinge, altra provincia in cui terra e mare si sposano piacevolmente. Le oche scesero su un isolotto nudo in fondo al fiordo di Gas e subito s'avvidero che la primavera aveva fatto notevoli progressi. Gli alberi erano ancora spogli, ma il suolo ai loro piedi era già sparso di anemoni, crochi, primule e pervinche. Di fronte a quel tappeto fiorito, le oche temettero di essersi fermate troppo a lungo a sud e Akka decise, seduta stante, di non far tappa nello Småland, ma al contrario di ripartire immediatamente per il nord attraverso l'Östergötland, un itinerario che non avrebbe permesso a Nils di farsi neppure un'idea dello Småland, come invece aveva sperato. L'estate precedente, come sappiamo, aveva fatto il guardiano di oche per conto di un contadino di Jordberga e quasi ogni giorno aveva incontrato due poveri fratelli dello Småland, anch'essi guardiani di oche, i quali gli avevano raccontato meraviglie del loro paese d'origine, sempre con l'aria di prenderlo benevolmente in giro. Nessuno t'ha mai detto come sono stati creati lo Småland e la Scania? Gli avevano chiesto un giorno e alla risposta negativa di Nils gli avevano raccontato questa storia. Era il tempo in cui nostro Signore creava il mondo e mentre era nel pieno dell'opera passò di là a San Pietro. Questi si ferma e gli chiede se è un lavoro difficile. Mica tanto facile, risponde il Signore. San Pietro rimane un po' a osservare. E visto con quanta facilità Dio disponeva qua e là le terre, i mari e i monti, gli viene voglia di provarcisi anche lui. Perché non ti riposi un po', propone al Signore. Nel frattempo potrei sostituirti io. Il Signore però non era di quel parere. Non so se sei in grado di farlo, disse. San Pietro se l'ebbe a male e replicò che era pronto a scommettere che poteva creare paesi belli quanto il Signore in persona. In quel momento Dio stava creando lo Småland. Non era giunto ancora a metà, ma già si capiva che sarebbe stato un luogo bellissimo e fertilissimo. Non volendo umiliare San Pietro e pensando che una cosa ben cominciata nessuno potrebbe sciuparla, gli disse: Va bene, prova pure, ma siccome sei un principiante, termina questa provincia mentre io ne comincio un'altra. San Pietro consentì e i due si misero al lavoro, ognuno per conto suo. Il Signore andando un po' più a sud per creare la Scania. Ben presto ebbe finito e allora tornò da San Pietro per chiedergli a che punto fosse per invitarlo a dare un'occhiata alla nuova terra. Io ho finito da un pezzo e posso venire a vedere, disse San Pietro, e dal tono della voce si capiva che era assai soddisfatto dell'opera compiuta. Quando vide la Scania, dovette ammettere che non c'era niente da ridire, un paese fertile, facile da coltivare. Ma il suo, soggiunse, era meglio ancora. Andiamo a vederlo, replicò il Signore. Quando Dio vide quel che San Pietro aveva combinato, si mise le mani nei capelli. Pietro aveva pensato che il pregio maggiore per un paese consistesse nel godere di un clima caldo, per cui aveva sovrapposto pietre e rocce, creando un grande altopiano perché fosse più vicino al sole, e sopra ci aveva steso un sottile strato di humus. Ma mentre era nella Scania, erano sopravvenuti degli acquazzoni e della terra fertile non c'era più traccia. Di acqua invece ce n'era tanta che aveva riempito le valli sottostanti e ovunque si vedevano laghi, torrenti, fiumi, stagni e paludi, ma purtroppo l'acqua era mal distribuita. Qui il suolo risultava troppo umido, lì al contrario troppo arido. Il Signore volle sapere che scopo si fosse prefisso Pietro, plasmando a quel modo il territorio, e il santo gli spiegò che l'aveva messo in alto perché ricevesse il calore del sole. Ma durante la notte sarà freddissima, perché anche il freddo scende dal cielo, replicò il Signore, e temo che quello che vi crescerà sarà fatto morire dalle gelate. A questo Pietro non aveva pensato. E va bene, disse Dio, vuol dire che sarà una plaga povera ed esposta ai freddi improvvisi. Ormai non si può più rimediare. A questo punto era intervenuta Osa, la maggiore, dando sulla voce a Mats, il fratello. Non permetteva, gli disse, che si parlasse così male dello Smoland. Non c'erano forse nello Smoland anche cose amene come la spiaggia di Tjust, i golfi, le colline, i castelli principeschi, i boschi, il bel lago di Vättern, le città di Gränna e di Jönköping, Visingö con la sua immensa foresta di querce, i villaggi lungo il fiume Ema, i mulini e le fabbriche di oggetti di legno? Verissimo, ammise Mats, ma tutto questo si trova nella parte dello Småland già creata da Dio quando Pietro incominciò la sua. E la leggenda dice anche che davanti al disastro combinato dal santo, il Signore si irritò, ma Pietro non si perse d'animo. Aspetta che abbia creato gli abitanti e vedrai come prosciugheranno le paludi e trasformeranno in poderi i pendii rocciosi dei monti. Ma il Signore aveva perso la pazienza e ribatté: No, no, no, vai tu nella zona della Scania che ho appena creato e fabbrica gli abitanti, ma gli smolandesi lasciali fare a me. E Dio creò lo smolandese e lo fece intelligente, sobrio, allegro, ordinato, operoso e forte perché potesse guadagnarsi da vivere nella sua povera terra. Così Mats concluse, e se avesse taciuto anche Nils, tutto sarebbe finito lì, ma egli non poté fare a meno di domandare come furono gli abitanti della Scania creati da San Pietro. E Mats, con aria più che mai ironica, per quanto ti riguarda, sei contento di te stesso? Nils impermalito fece per saltargli addosso, e siccome Mats era piccolo, Osa, maggiore di un anno, gli venne in aiuto. Per quanto di solito mite, diventava una leonessa se qualcuno minacciava il fratello e Nils, che non se la sentiva di picchiare una bambina, voltò le spalle ai due e se ne andò e per tutta la giornata stette alla larga dai due smolandesi. I corvi. La pentola di terracotta. All'estremità sud-occidentale dello Småland si trova il distretto di Sunnerbo, una distesa piatta e regolare. E chi la vede d'inverno immagina sotto la neve ampie distese di frumento. Ma quando ai primi d'aprile la neve si scioglie, si accorge che quasi tutto è arida sabbia, pietraie e acquitrini. Nella zona di confine tra il Sunnerbo e il distretto di Allan c'è un'ampia landa fitta di erica da cui emerge solo una bassa collina pietrosa sulla quale crescono arbusti di ginepro, sorbi e bellissimi faggi. All'epoca del viaggio di Nils con le oche selvatiche c'era anche una vecchia capanna con un breve lembo di terra dissodata ma ormai abbandonata. Lasciando la capanna, gli uomini che l'abitavano un tempo avevano chiuso la cappa del camino, la finestra e l'uscio, dimenticando però che un vetro era rotto. Ma la collina pietrosa non era affatto spopolata come si poteva in un primo momento credere. Sull'altura abitava una numerosa tribù di corvi, i quali passavano l'inverno lontano, d'estate vivendo di uova, bacche e piccoli uccelli tra le masserie del distretto di Sunnerbo e tornando ogni primavera nella landa coperta d'erica per farvi nidi e covare. Era stato appunto un corvo a scoprire il vetro rotto della capanna. Un vecchio maschio a nome Garm Penna Bianca, ma tutti lo chiamavano Fumle oppure Drumle o anche Fumle Drumle, che vuol dire sciocco, perché era un gran pasticcione. Era più grosso e robusto degli altri, ma gli serviva a ben poco perché di tutti era lo zimbello, né gli giovava discendere da una famiglia principesca. A rigor di termini, avrebbe dovuto lui essere il capo dello stormo, dignità da sempre appartenuta al più anziano dei Penna Bianca, ma già prima della nascita di Fumle Drumle la sua casata aveva perduto il potere, passato a un corvo crudele a nome Ventofretta. Questo era avvenuto quando i corvi avevano abbandonato le antiche abitudini di vita. Molti pensano che i corvi vivano tutti allo stesso modo, ma non è così. Ve ne sono che conducono vita onesta, nutrendosi di grano, vermi, bruchi e animali morti, ma altri conducono un'esistenza da briganti, assaltando le proti e uccellini e saccheggiando tutti i nidi che trovano. Ora, gli antichi sovrani Penna Bianca erano austeri e sobri, ma i corvi erano numerosi, versavano in miseria e non intendevano più accettare una vita di stenti, e così si erano sollevati contro i Penna Bianca, proclamando il loro capo Ventofretta il peggior predatore di nidi che ci fosse, eccezion fatta per sua moglie Burrasca. E sotto il loro regno i corvi si erano abbandonati a ribalderie tali da essere temuti più degli stessi sparvieri e dei gufi. Fumle Drumle non aveva dunque ormai voce in capitolo nella banda e di lui non si sarebbe più parlato se non avesse avuto la fortuna di essere uno sciocco e un inetto, perché altrimenti Ventofretta e Burrasca l'avrebbero esiliato. E si mostravano molto gentili con lui, facendosi accompagnare a caccia, in modo che tutti vedessero che i nuovi capi erano assai più in gamba dei Penna Bianca. Nessuno dei corvi sapeva che Fumle Drumle aveva scoperto il vetro rotto e Fumle Drumle aveva tenuto il segreto per sé e aveva le sue buone ragioni. Gli usurpatori lo trattavano con ogni riguardo di giorno in presenza degli altri, ma una notte buia era stato assalito da alcuni corvi, evidentemente mandati da Ventofredda e Burrasca, che per poco non l'avevano ammazzato. E da allora ogni sera abbandonava il suo posatoio sull'albero e andava a dormire nella capanna. Un pomeriggio di primavera i corvi fecero una strana scoperta. Ventofredda, Burrasca e un paio d'altri erano discesi in fondo a una fossa scavata in un angolo della landa. Si trattava semplicemente di una cava di sabbia, ma i corvi non riuscivano a capire perché gli uomini l'avessero scavata e, incuriositi, continuavano a svolazzarvi attorno. A un tratto una parete della buca franò e i corvi videro affiorare una pentola di terracotta chiusa da un coperchio di legno. Invano tentarono di romperla a colpi di becco, la pentola resistette e mentre erano là, senza sapere che fare, udirono dietro di loro una voce. «Vi occorre aiuto, corvacci?» Si volsero e videro una volpe che li osservava dall'orlo della cava, un bellissimo animale con un solo difetto, gli mancava un orecchio. I corvi accettarono l'offerta e la volpe saltò giù e prese ad azzannare pentola e coperchio, ma neppure lei riuscì ad aprirla. Allora la fece rotolare, stando in ascolto. «Può darsi che dentro ci siano monete d'argento», concluse. Gli occhi dei corvi brillarono di cupidigia. «Parrà strano, ma nessuna cosa li attira più delle monete d'argento». Chiesero alla volpe se ne era certa e lei: «Non sentite come tintinnano? Vorrei solo sapere come fare a prenderle». «Impossibile, impossibile!» sospirarono i corvi. Ma la volpe rifletteva, grattandosi la testa con una zampa. «Conosco qualcuno che potrebbe aprire la pentola», disse alla fine. «Chi è? Chi è?» gracchiarono in coro i corvi, posandosi bramosi in fondo alla fossa. «Si chiama Pollicino e sta con le oche selvatiche». E la volpe soggiunse che se riuscivano a portarlo fin lì avrebbe senza dubbio aperta la pentola. In compenso del servigio, chiedeva solo che non appena Nils avesse procurato loro le monete d'argento, lo consegnassero a lui, il volpone. E i corvi accettarono. Ma dove si trovavano il piccolo uomo e le oche? Ventofretta si mise in viaggio accompagnato da 50 spavaldi corvi, ma i giorni passavano e gli uccelli non ricomparivano.